pericolo. C'è un test molto semplice che potrebbe risolvere questo problema, perché lo scenario rispetto a qualche anno fa è cambiato. Ne parliamo col professor Massimo Colombo, direttore della cattedra di gastroenterologia dell'Università di Milano e della divisione di gastroenterologia del Policlinico di Milano. Professore, bentornato e buongiorno. Buongiorno a lei, dottoressa. Allora, iniziamo a parlare di questo test. Sì, è un test semplice perché si effettua ponendo una goccia di saliva o una goccia di sangue prelevato con una lancetta dal polpastrello in un piccolo set e nell'arco di 20-40 minuti dà l'eventuale positività per l'anticorpo contro il virus dell'epatite C. Esame che fino ad oggi è possibile fare solo con un formale prelievo di sangue da vena, quindi sposta la possibilità della diagnosi dagli ambulatori, degli ospedali o sul territorio al limite all'indagine fatta a domicilio, e la sua sensibilità è giudicata ottima in base ad alcuni lavori recentemente pubblicati. Quindi, professore, sarebbe un test molto semplice che permetterebbe di fare diagnosi in tempi rapidi, però riguardo alla possibilità di utilizzare dei test per fare lo screening, la posizione delle autorità, delle comunità scientifiche era stata ben chiara, cioè evitare uno screening nella popolazione di massa. Sì, dottoressa, per quanto noi siamo convinti che anticipare il più possibile la diagnosi dell'epatite C e quindi la cura sia un beneficio globale per la popolazione, le autorità sanitarie, d'accordo con la comunità scientifica, avevano avuto una posizione contraria perché non la giudicavano vantaggiosa in termini di costo-beneficio. Perché? Perché si costringeva la popolazione alla mobilità, quindi a raggiungere ospedali e centri di prelievo per avere la diagnosi di epatite C. Spesso si incontravano persone molto anziane, non più trattabili, e persone magari ancora potenzialmente trattabili ma con un'infezione blanda non meritevole. Oltretutto, negli anni scorsi disponevamo di cure per l'epatite C di efficacia, diciamo, intermedia, per cui le autorità sanitarie, d'accordo con la comunità scientifica, avevano elaborato una raccomandazione che era quella di stimolare i medici sul territorio di rintracciare i casi epatite C positivi investigando la storia clinica, quindi chiedendo se avevano fatto trasfusione, uso di droga o se vivevano in famiglie dove una madre o un padre erano infetti, quello che gli inglesi definiscono il case finding. E quindi no allo screening di massa perché non era vantaggioso. L'arrivo di questo test, da un lato, che non mobilizza più la popolazione verso ospedali in modo costoso, e la disponibilità di cure molto efficaci. Oggi noi curiamo il 40-50% dei pazienti col genotipo più difficile, il 90% di quelli col genotipo facile, e fra due anni avremo dei farmaci nuovi, gli antivirali diretti, che guariranno fino al 75% dei pazienti col genotipo difficile 1. Ma soprattutto gli studi che hanno dimostrato che almeno in Italia il 60% dei soggetti con infezione cronica da virus C non ha alcun fattore di rischio che lo possa rivelare al medico come portatore di infezione, fa un po' cadere la potenziale utilità della strategia del case finding. E guardando a questi nuovi sviluppi di cure e di diagnosi, nella mia personale opinione ritengo ci sia una base per riconsiderare la possibilità di uno screening a largo spettro sulla popolazione. Consideri anche che le attuali cure per l'epatite C non pongono più un vincolo a 65 anni di curabilità, ma arriva tranquillamente a 70, ma soprattutto disponiamo dei predittori precoci in corso di cura per capire chi sta guarendo da chi non sta guarendo, risparmiando soldi e fatiche ai pazienti e quindi migliorando in termini di costo efficacia l'approccio di cura. Quindi, professor Colombo, lo scenario è cambiato, si potrebbero un po' rivedere le posizioni delle autorità sanitarie e delle comunità scientifiche? Beh, certo, questo dipenderà dalle conferenze prossime a venire, importante è quella che si terrà ad ottobre a Bruxelles, organizzata da noi italiani e dagli europei, e se si riesce a trovare un punto di equilibrio si potrebbe voltare pagina. Quindi devo dire, ci state lavorando, ci state pensando e noi vogliamo anticiparlo. Ma professor Colombo, al di là di questa ricerca di massa, il test, questo test sulla saliva così semplice e sicuro e soprattutto che comodo, perché lei ha detto che si può anche fare a domicilio, potrebbe essere anche utilizzato dal singolo quando magari pensa di aver contratto il virus.

parlando con i miei genitori, mi hanno detto questo avrà un futuro, perché avevo un galleggiamento fuori dal comune e quindi mi veniva molto, tutto molto naturale, soprattutto il dorso. Io ho fatto dorso per tantissimi anni, quindi insomma si vede, si butta... non ho sbagliato sport, ecco. Ero nato proprio per quello. E non hanno sbagliato neanche gli istruttori che ci avevano vista lunga. Emanuele, io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi. Un grazie saluto mille. Al tuo bambino. Dottor Confalonieri, io la saluto, soprattutto la ringrazio, ma prima voglio dare un avviso per il suo fans club. Il dottor Confalonieri infatti nel mese di agosto traslocherà dal venerdì, passerà al lunedì, un appuntamento settimanale per insegnarci a vivere bene le vacanze come un'occasione di remise en forme nel corpo e nello spirito. Quindi il dottor Confalonieri, cercatelo al lunedì. Adesso abbiamo capito perché non escono mai dal bagno, perché i nostri uomini si fanno belli proprio come facciamo noi. Fino a qualche anno fa non si poteva nemmeno proporre loro di massaggiarsi un po' di crema sul viso, e non parliamo, ahimè, di darsi un idratante per il corpo. Oggi invece non solo frequentano senza imbarazzo profumerie, centri di benessere, ma sono diventati consumatori attenti, sanno bene quello che vogliono. Noi ne parliamo col professor Antonino Di Pietro, dermatologo e presidente dell'ISP. Professore, buongiorno e soprattutto bentornato. Buongiorno, buongiorno. Professore, quello che è interessante è che l'uomo di oggi non ha più bisogno di rubare il nostro idratante, no? A rubarlo alla moglie, alla compagna, alla sorella, perché per gli uomini ci sono proprio delle linee dedicate alla loro pelle che è ben diversa da quella delle donne. Sì, è la verità. Io ho seguito un po' tutta questa evoluzione ormai in più di 20 anni di mia carriera, e ricordo qualche anno fa quando i maschi chiedevano a noi dermatologi il dopo barba che poteva anche fermare qualche ruga, quindi passava tutto attraverso il dopo barba, che era un po' un alibi. E invece adesso negli ultimi tempi i maschi entrano nei nostri studi dermatologici perché vogliono sapere come invecchiare più lentamente, quindi basta vedere le vetrine anche di molte profumerie che sono ormai piene solo di linee maschili, quindi c'è una grande richiesta, e anche per noi dermatologi questa è una cosa importante, perché ci troviamo a confrontarci con problematiche diverse da quelle a cui eravamo abituati da anni, che era una pelle femminile, ma dobbiamo cominciare a trattare una pelle maschile con tutti i suoi problemi. In genere la pelle maschile è una pelle più spessa, più forte, tende a essere un po' più grassa, ha i pori più dilatati, e in particolare poi sul viso c'è la presenza della barba, che è un elemento non trascurabile, spesso fonte di problemi piccoli o grossi a seconda dei casi. Professore, anche gli uomini invecchiano. Noi donne temiamo le zampe di gallina, il codice a barre lungo le labbra, la faccia stanca, insomma il passare degli anni. Gli uomini forse la mascherano un pochino di più, ma c'è un punto esatto che ci permette di individuare l'età anagrafica dell'uomo che abbiamo di fronte, ed è proprio vicino all'orecchio. Sì, questa è una zona caratteristica, è la zona davanti l'orecchio dove compaiono più velocemente queste pieghe che poi sono rughe. La richiesta però importante che fa il maschio al dermatologo è di fare dei trattamenti, perché vogliono fare dei trattamenti, vogliono fare qualcosa, ma non deve vedersi assolutamente nulla, logicamente. Quindi non devono restare segni, non devono restare arrossamenti o ecchimosi. Quindi ancora di più per il maschio bisogna scegliere delle terapie che possano fermare i segni del tempo, ma che permettono subito dopo di tornare in ufficio o la sera andare fuori a cena con la fidanzata o con la moglie o frequentando gli amici, senza che nessuno si accorga che abbiamo fatto qualcosa. Grazie allora, professore, per essere stato con noi. Abbiamo scoperto i segreti dell'altra metà del cielo. Le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a tutti gli ascoltatori. Insalata, istruzioni per l'uso. Parliamo di insalate in busta, molto pratiche, poco convenienti, ma si sa, tutto quello che fa risparmiare tempo costa caro. Allora cerchiamo di scegliere bene la nostra insalata e consumarla al meglio. In linea con noi abbiamo il professor Marco Dalla Rosa, ordinario di tecnologie alimentari all'Università degli Studi di Bologna presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti. Professor Dalla Rosa, buongiorno.